con Stefania Bianchi, direttrice della 17ª edizione di Guerre e Pace Film Fest al Forte Tangallo a Nettuno dal 16 al 21 luglio 2019. Stefania, ben trovata. Ciao a tutti, grazie. È un festival che seguiamo sempre, raccontiamolo a chi ci ascolta. Sì, seguite sempre, ci portate anche fortuna perché ogni volta, insomma, che parlate poi del festival, il pubblico risponde sempre numeroso. 17ª edizione, come hai detto tu, è Forte Sangallo a Nettuno ad ingresso gratuito. Quest'anno il tema è biografie di te e di guerra perché vogliamo raccontare proprio diverse tematiche delle guerre, portare lo spettatore a riflettere su grandi temi della storia passata ma anche della storia recente. E apriamo proprio questa sera con un documentario molto attuale che è Il mare della nostra storia di Giovanna Gagliardo in collaborazione con l'Istituto Luce Cinecittà che parla proprio della Libia, ma della Libia di ieri ma anche della situazione, insomma, della Libia di oggi. Quante opere nel complesso? Sono 7 film, tra film e documentari, ma ci sono anche la presentazione di libri, due libri molto attuali, perché giovedì 18 presenteremo la visione di Trump, di Donald Trump e di Germano Dottori, che è un esperto di geopolitica, mentre venerdì 19, come libro, edito da Feltrinelli, presenteremo Cacciateli, un libro di concetto vecchio che ci racconta proprio l'immigrazione degli italiani all'estero, quindi con quello prendere poi lo spunto per affrontare anche un tema attualissimo che ci riguarda da vicino. Stefania, raccontiamo anche com'era nato tutto. Beh, tutto è nato 17 anni fa, è nato a Nettuno, il Guerre e Pace Film Fest si è sempre svolto a Nettuno, in questa splendida location del Forte Sangallo, che è una location del 500 sul mare, per cui invito tutti a partecipare perché è bellissima anche la location dove avvengono le proiezioni. E insomma, in 17 anni, nonostante la crisi dei festival, noi abbiamo resistito e siamo qui, ogni edizione è un tema diverso, naturalmente sempre film, grandi film di guerra e di pace, quest'anno ci sarà Guerriglia, Red Land, Rosse Istria, Resta, Il colore della distoria, insomma c'è il programma sul nostro sito, grandi film per intrattenere il pubblico ma anche per riflettere. Come sono i criteri di scelta delle pellicole, dei lavori? Scegliamo sempre seguendo un filo conduttore, ogni anno un tema diverso, abbiamo affrontato le guerre invisibili, le storie viste, la guerra vista dai bambini, le storie di guerra, quest'anno le biografie, ci piace proprio raccontare delle storie vere, dei proprio personaggi veri che la cui memoria va comunque conservata e va trasmessa, le loro gesti vanno trasmesse ai più giovani e quindi abbiamo film come Che Guerriglia, che è un film bellissimo di Steven Soderbergh, che ci racconta che una parte poi della vita di Che Guevara, meno conosciuta, è la rivoluzione proprio boliviana del Che e la sua fine, quindi è anche, diciamo, un aspetto meno conosciuto. O la storia di Hannah Arendt, la filosofa ebreo tedesca che fugge dagli orrori della Germania nazista, o la storia meravigliosa di Race, Il colore della vittoria, che è la storia di Jesse Owens, insomma è il primo grande atleta nero che vince le Olimpiadi sotto gli occhi di Hitler, quindi puoi immaginare quanto può essere bella questa storia. Come saranno organizzate le giornate? Raccontaci un po' degli orari. L'organizzazione è tutta piena di sera perché le proiezioni proprio al cinema sotto le stelle in questa corte del Forte Sangallo si inizia tutte le sere alle 21 e quando c'è la presentazione dei libri invece alle 20:30, quindi c'è prima la presentazione del libro e poi c'è il film e il documentario. Questa sera per esempio avremo due documentari, Il mare della nostra storia e Il destino degli uomini di Leonardo Di Peri, che è bellissimo da vedere. È prevista anche la presenza di alcuni autori e autrici? Sì, questa sera avremo Giovanna Gagliardo, ci saranno poi gli autori dei libri, Germano Dottori, che presenterà la visione di Trump, e il concetto vecchio che presenterà Cacciateli, e naturalmente saranno presenti i rappresentanti di Cinecittà Luce, del Comitato Atlantico Italiano e le istituzioni che sono insomma partner della manifestazione. In chiusura, Stefania, ci lasci i riferimenti web per seguire il programma? Sì, allora possono vedere il programma e anche il promo di questa 17ª edizione su www.guerrepacefilmfest.it, guerra e pace con le due E, perché insomma non c'è la E di Company, e naturalmente possono seguirci anche sul nostro canale social che è Guerra e Pace Film Fest, dove insomma c'è l'aggiornamento di quello che accade durante la manifestazione, e è ingresso gratuito fino al esaurimento posti, per cui dico venite un po' prima anche per trovare posto al Forte San Gallo. 17ª edizione del Guerra e Pace Film Fest al Forte San Gallo a Nettuno dal 16 al 21 luglio 2019, un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Stefania Bianchi. Un abbraccio e in bocca al lupo, risentirci presto Stefania. Grazie, un abbraccio anche a voi, viva il lupo, buon lavoro.